Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 10:07 primi e 40 secondi di questo sabato 11 febbraio e anche in questo sabato state con noi in queste due ore e chiamateci all'800240024, l'allegra compagnia dei conti della Belva vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretto in podcast. In studio qui oltre a me Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Baffè, mentre oggi Renato Cifarelli, ohimè, c'ha un impianto da mettere a posto nell'azienda e quindi non sappiamo se ce la fa a collegarsi. Comunque auguri, e lui lavora sempre. Allora, di che cosa parliamo oggi per consentirvi di vedere se telefonare, ripeto, il numero 800240024, mentre per gli sms con Mario che li monitora e risponde salacemente al 349-238-6666. Allora, noi abbiamo oggi andiamo un po' a blocchetti per capirci. Partiamo con il segretario della FABI, con la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, perché sapete che nelle banche settimana bella pepata tra abbattimenti di valore delle banche, caro Oscar, questa settimana 16 miliardi sono spariti, ecco, dai bilanci, dai bilanci. Però detto questo, mentre prosegue l'opera delle pulizie delle strade di Audas, del sistema bancario che è il più sano del mondo, è stato anche sottoscritto un accordo però con l'ABI, quindi un accordo tra sindacati e sistema bancario, che per una volta mette al centro non solo le condizioni di lavoro, o meglio sì le condizioni di lavoro, ma finalizzate a che tipo di prodotti finanziari si piazzano ai clienti, con che garanzie, con che incentivi. Quindi è proprio un pezzo importante di quello che secondo noi manca come riflessione, cioè come si alza la redditività del sistema, perché poi questo è il punto vero. Si possono pulire tutti i bilanci che volete, abbiamo appreso in settimana, ne parleremo, da Alessandro Penati, che ci sarà un aumento di capitale precauzionale anche per le due vendite, quindi lo Stato entra anche lì. Però poi se non si fa redditività e se non si abbattono i costi, se non si efficienta tutto, è tutto inutile. Allora inizieremo parlando di questo, dopodiché ci sposteremo con l'unico sciopero che ci piace, cioè lo sciopero dei commercialisti, che è preannunciato per la durata di 20 giorni, addirittura gli ultimi di gennaio e i primi di febbraio. L'obiettivo dichiarato è quello di far saltare le scadenze, ma l'obiettivo dichiarato non è quello in realtà. Ci sono ben 12 punti che i commercialisti hanno messo al centro del confronto, dichiarando questa agitazione, sperando che il governo capisca. E innanzitutto si parla della modifica del nuovo regime posto dal decreto fiscale che ha accompagnato la legge di bilancio per quello che riguarda gli adempimenti delle partite IVA, quindi il ritorno alle comunicazioni trimestrali, allo spesometro e naturalmente l'aggravio che tutto questo comporta. C'è un regime transitorio che è previsto tra il 2017 e il 2018, però l'obiettivo è quello di evitare che si arrivi davvero alle scadenze trimestrali. Comunque i commercialisti individuano nella difesa del contribuente l'obiettivo della loro manifestazione. A me piace per questo, in teoria loro ci guadagnano dall'aggravamento di tutte le procedure che bisogna espletare, quindi potrebbero dire vabbè, mal comune, mal, per il nostro portafoglio è meglio. Invece vedremo quali sono gli obiettivi e le condizioni allo stato attuale che la controparte, cioè lo Stato, ha posto a loro. E dopo questo secondo blocco, quindi chiamateci se siete commercialisti o comunque anche se come contribuente appoggiate o meno questa astensione dal lavoro, ci porremo un altro problema sempre sul fisco, perché sapete che sta avampando una certa polemica interna al PD. Il governo è un po' scocciato nei confronti di alcune decine di parlamentari del PD che hanno firmato un documento pubblico, che dicono no, noi non siamo favorevoli all'intenzione che viene dichiarata dal governo Gentiloni e confermata dal MEF di adempiere alla richiesta di una correzione del maggior deficit atteso nel 2017 da parte europea con l'aumento delle accise dell'IVA. Piantiamola lì, è sbagliato, mettete mano a qualche taglio di spesa, ma insomma niente tasse aggiuntive. del resto con una certa coerenza rispetto a quello che diceva Renzi. Allora, su questo, siccome c'è chi lo considera un'espressione politica per mettere bastone tra le ruote al governo Gentiloni da parte dei renziani, ma se stiamo al merito, perché per una volta che c'è un confronto su una questione di merito e non su complicate questioni interne, il congresso, le primarie, la conferenza o no del PD, qui è una questione concreta, cioè, perché dovete ritoccare le tasse, le imposte indirette? Allora, abbiamo deciso di chiamare con noi il primo firmatario di questa mozione e ne parleremo con lui, Edoardo Fanucci. Poi, dopo il GR delle 11, ci porremo un altro problema e andiamo sulla scena internazionale. Primo problema Trump, perché abbiamo chiamato uno dei due coautori di un libro che mi è piaciuto molto, che si chiama Industria, Governo e Mercato, lo trovate nel Mulino, ed è un'analisi molto approfondita e scadita nel tempo per settore di mercato, che si pone una questione: ma è vero che negli Stati Uniti, come recita la teoria e la vulgata, davvero l'intervento pubblico sia confinato solo ai fallimenti del mercato? No, non è vero la risposta, perché documentata nella storia americana si vede che la politica interviene come? Sia per protezionismo, sia per dirigismo, governi repubblicani o governi democratici, non solo nel settore dell'aeronautica, della difesa e dello spazio. Allora, da questa premessa domanda: ma Trump quindi è da considerare uno scherzo della storia o è molto più, sia pure in maniera più esplosivamente comunicativa, in continuità con la politica americana di quanto non si creda? Questa è la domanda da porsi, che è una domanda con influenza, un impatto diretto sull'Europa, come avete visto, su quello che accadrà in Francia e in Germania. E dopo questo blocco, con Udo Gumpel, infatti, ci porremo la questione: cosa si sono dette Draghi e Merkel? Schulz è sempre più sfavillante nei sondaggi nel frattempo in Germania, parla ormai dovunque va, una Madonna Pellegrina, riempie i teatri, ve l'avevamo già anticipato una settimana fa, questa settimana addirittura ha superato la Merkel nei sondaggi e inizia a vedersi una certa prospettiva, perché lui, Schulz, inizia a rispondere a Trump quasi tutti i giorni, cioè, ed è diventato il potenziale statista europeo il vero antemurale rispetto a Trump, perché tutti gli altri sembrano assecondarlo, tranne che la stella nascente della politica tedesca ha un tono diverso verso l'Europa e anche verso l'Italia, perché non c'è giorno che dica l'Italia va sostenuta, la Merkel aveva qualche difficoltà a ripetere, a dirlo, e soprattutto risponde con una certa energia a Trump. Ecco, gli argomenti della giornata sono questi. Rapida aggiunta da parte di Mario Caralberto per vedere che cos'altro oltre a questo, poi cominciamo subito con la rubrica di Mario, aggiungere all'attenzione dei nostri ascoltatori. Mario. Oh, io sono colpito e preoccupato per l'assessore Berdini del Comune di Roma, perché quest'uomo praticamente pare che sia prigioniero, perché ha presentato le dimissioni che sono state respinte ma con riserva. Ora, che cos'è esattamente respingere con riserva le dimissioni? Quindi, se l'assessore Berdini è tenuto prigioniero, cerchiamo di aiutarlo, chiamiamo le forze dell'ordine, libero, eccetera. Libero. Esatto, Berdini libero, al limite anche terzino fluidificante. Però, se invece il motivo è che, se invece il buon Berdini è completamente libero, allora tragga le conclusioni e le conseguenze, anche per il bene della sua reputazione umana e professionale, e renda quelle dimissioni irrevocabili, perché di teatrini in questo paese ne avremmo anche le tasche piene. Altro punto, io vorrei veramente levare una lode, un peana all'ex tesoriere dei DS Ugo Sposetti, che è uno dei maghi della finanza italiana per quanto mi riguarda, proprio altro che Cuccia o altro che ingegneria finanziaria. Segregare il patrimonio immobiliare dei DS non era facile. No, ma non solo. L'uomo, diciamo, ha segregato tutto il patrimonio immobiliare dei DS in 57 fondazioni territoriali, rese inattaccabili, impermeabili, veramente. Però adesso abbiamo anche appreso che ha presentato un emendamento approvato a larga maggioranza in commissione al Senato che proroga per altri 12 mesi la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti dei partiti defunti. Sta parlando sempre di quello. Assolutamente. Però, come lo ha motivato, parlando con il Fatto, che lo ha contattato per avere un giudizio, Sposetti ha detto: il Jobs Act ha escluso il rinnovo della cassa integrazione straordinaria per chi non svolge più attività politica. come se un partito fosse un'azienda che fa pentole e ad un certo punto chiude. Un'interpretazione forzata. Beh, di pentole effettivamente qualcuno ha tentato di rifilarci. I coperchi no, però di venditori di pentole ne abbiamo moltissimi, per cui diciamo che l'immagine è suggestiva. Ora, la sfortuna ha voluto che questo emendamento sia stato approvato praticamente in contemporanea col fatto che l'INPS, quei diavoletti dell'INPS, hanno segnalato che non ci sono più soldi per prorogare in regime sperimentale la DISCOL, che è la indennità di disoccupazione dei collaboratori, cioè dei Cococò e dei Cocopro. Ovviamente, visto che l'accostamento, la giusta posizione delle due notizie fa lievemente incazzare il popolo stressato, e io sono assolutamente solidale, il povero ministro del lavoro, ieri sera in maniera trafelata, come sempre, ha precisato che ci sarà una proroga della DISCOL in attesa di una nuova norma strutturale. Per cui, diciamo, facciamo progressi, anche i Cococò che, diciamo, non fanno pentole ad uso della politica potranno forse anche nel 2017 avere i loro 6 mesi di disoccupazione. Però massima ammirazione per Ugo Sposetti, che è uno dei maggiori ingegneri finanziari della storia di questo paese. Ripeto, rivaleggia e giganteggia con Enrico Cuccia ciascuno nel proprio ambito storico e operativo. Comunque, caro mio, la scadenza della DISCOL era concepita come tanti interventi a tempo del governo Renzi, cioè era la scadenza perché si doveva votare, poi se volete che continui mi dovete votare, non ci sono più le elezioni e adesso ci si trova e non troviamo più la scarpa destra. La scarpa destra, va bene, però avremo il pacco di pasta. Oscar, invece io posso fare una considerazione politico canora. Allora, io ho visto i dati dell'audience e dello share di Sanremo e devo dire che la RAI anticipa il futuro delle grosse coalizioni che ci dovrebbe già aspettare. Anche tu. Ma se ci pensi un secondo, questo 50, qualcosa per cento, con quasi 12 milioni di telespettatori. Anche tu. No? Addirittura, se non sbaglio, è arrivato al 53% nel dopo festival. Sono segnali, secondo me, interessanti, perché hai visto che sostanzialmente lì c'è stata la convergenza, no? dei gruppi televisivi che hanno messo in campo le loro stelle migliori. Per me è un segnale interessante. Anche la televisione, scusami, fammi fare un commento tecnico, che quando vuole fare agenda nella nazione, certo, su temi, diciamo, dai, l'agenda della nazione a Sanremo, esatto, l'agenda della nazione è virgolette canta che ti passa, Oscar, cosa che ti dica, evidentemente hai visto i bilanci delle banche sui giornali questa cioè mattina. Tu dici che l'unica è canta che ti passa, visto che conta ma ti scassa, questo è, se conti e il fatto che stiamo avvicinandoci al proporzionale ci fa capire anche che forse la strada è quella lì. Traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, adesso parte la sigletta del... Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. E infatti non a caso oggi è la Madonna di Lourdes e quindi ci vogliono i miracoli della Madonna di Lourdes qualche miracolo si è visto, però dai, oggettivamente sentiamo Mario che meno ne indica male qualcuno. Che l'industria italiana qualche segno di vitalità ce lo dà. A dicembre la produzione industriale italiana ha fatto boom, diciamo più 1,4% su novembre. Nella media del trimestre ottobre-dicembre rispetto al trimestre precedente più 1,3. Il dato più eclatante, che è corretto per gli effetti di calendario, visto che a dicembre c'erano 20 giorni lavorativi contro i 21 del dicembre del 2015, l'aumento del 6,6%. Ora, cosa possiamo dire? Due cose. Intanto ci togliamo subito il dente, così direte che sono il solito rosicone, anche un po' stronzo. Rosicone. Attenzione, perché c'è probabilmente anche su dicembre qualche lieve problema di destagionalizzazione da festività non fisse. Questo magari lo vediamo sul dato di gennaio, però è innegabile che abbiamo 2 mesi consecutivi, novembre e dicembre, di crescita della produzione industriale che non fanno altro che confermare quello che noi qui umilmente vi diciamo da settimane, che è in atto una ripresa sincronizzata, globale, sia sul manifatturiero che sui servizi, che riguarda gli Stati Uniti, riguarda l'Europa, riguarda tutti quanti. Anche i dati sull'export Cina poi sono... Esatto. Anzi, di importazioni cinesi. Esatto, esatto. Per quanto, sai, Io sui dati delle importazioni cinesi, hai ragione, siccome loro stanno facendo una repressione terrificante, che cercano di non far uscire più uno yuan bucato, siccome la vecchia tecnica di chi può in Cina è quello di sovraffatturare le importazioni per mandare denaro fuori dal paese, e fermo restando che i dati macro cinesi sono lasciano sempre il tempo che trovano, Madonna di Lu, vedi Madonna di Lu, esatto, però diciamo, allora, complessivamente è in atto una ripresa sincronizzata, e questo potrà probabilmente aiutare l'Italia nel quarto trimestre del 2016, lo sapremo tra pochi giorni, a fare meglio dello 0,1 che era previsto, poi è diventato 0,2, adesso non si esclude che possa diventare più 0,3, e questo sarebbe utile anche per il trascinamento in corso d'anno e anche per dare un puntello ai conti pubblici del paese. Per cui, diciamo le cose come stanno, c'è una situazione in questo momento oggettivamente migliore. Se Trump non farà troppi casini, ma per adesso mi pare che si limiti a declamare, stiamo abbastanza sereni, incrociamo le dita, stiamo sereni in senso buono. Questa settimana ha corretto a 180 gradi alcune cose che aveva dichiarato, perché questo è venuto sulla NATO e è venuto sulla Cina. Esatto, No, qualche primo segno dei suoi collaboratori che stanno intervenendo. Infatti io sorrido di fronte a queste situazioni, diciamo, si parte, com'è che è, si nasce piromani e si muore pompieri, forse vale anche per lui. Fammi però commentare questo tema della sincronizzazione della crescita, perché è importante che lo capiscono anche i nostri ascoltatori. Vuol dire che si muovono tutti le catene del valore globali, cioè che non si muove l'Italia, ma che si muovono i flussi industriali coordinati delle grandi value chain globali. Questo è far capire che questa globalizzazione in realtà ha grandi svantaggi di complessità, ma anche il vantaggio che se rimani agganciato alle locomotive organizzative dei grandi gruppi industriali, e molte aziende italiane sono state in questi anni in grado di agganciarsi, a questo punto segui il trend, che è un trend comunque di una prospettiva di crescita moderata. Questo per far capire che le tentazioni sovraniste e protezioniste dovrebbero tenere conto della natura dei processi industriali che si sono affermati in questi ultimi anni, che è una natura molto distribuita e con fortissime specializzazioni internazionali. Ma guarda che le tentazioni sovraniste sono rimaste ferme al mondo degli anni 70 come organizzazione e divisione internazionale del lavoro. Lo rimpiangono allo stesso modo in cui rimpiangono le case chiuse. Per cui, a parte che i due concetti sono abbastanza interrelati. Per cui, guarda che dal loro punto di vista gli stai facendo un regalo, perché sono convinto che sia un tema popolare dire agli italiani torniamo alle case chiuse. Infatti gli italiani che vivono con gli occhi costantemente piantati nello specchietto retrovisore tendono poi ad andare a schiantarsi contro un muro, ecco, diciamo, perché occorrerebbe guardare anche davanti, non solo lo specchietto retrovisore. Comunque questi numeri della produzione industriale sono il successo delle aziende italiane agganciate ai grandi processi industriali globali, sono ancora una volta il segnale che la globalizzazione ben affrontata aiuta l'Italia invece che minacciarla. Vogliamo dire che questo è quello che crea lavoro e questo è quello che crea specializzazione e attrae investimenti, e non l'esatto contrario? Vogliamo dirlo con forza, questi numeri stanno spiegando anche agli italiani che si cresce solo insieme agli altri e non contro gli altri o facendo svalutazioni competitive. Ma ti vedo distratto, non sai che la vera cura elaborata da fondamentali insegnanti dell'economia del nostro paese è quella di una svalutazione senza alcun impatto, la ridenominazione senza alcun impatto dei contratti privati, dove vivete? Ma non avete capito che abbiamo in Italia una geniale risoluzione per crescere 7, 8, 12, magari 16 volte più rapidamente dei tedeschi senza alcun danno per il nostro debito pubblico, per il risparmio degli italiani? Ma perché vi ostinate? Però a non guarda capire? Che gli ultimi modelli macroeconomici indicano che la nuova lira si deprezzerebbe del 7%, 3 anni fa era del 30, 2 anni fa era del 20, se andiamo avanti così tra un anno e mezzo la lira si apprezzerà sull'euro e saranno cazzi amari, detto proprio con licenza poetica. Però vedo che voi per cui forse ostinati. conviene evitare di uscire, perché rischiamo un apprezzamento che ci manderebbe fuori strada. Vedo che siete proprio ostinati. Io volevo segnalare rapidamente ai due SMS che sono rimasti scioccati, perché sono convinti che Verdini sia effettivamente sequestrato. Ragazzi, quando distribuivano l'ironia, voi dove eravate? In bagno? Stavate copiando i compiti? Sveglia! No, ma dai, se aggiungi altra ironia, magari si svegliano. Non è sequestrato. L'unico sequestro che è in atto, visto le sue dichiarazioni per due giorni di tutti i giornali, animali e quello, è quello del della buon sua senso stessa, e del senso del ridicolo è stato della sua sequestrato. Stessa sciocchezza che lo ha sequestrato. Però detto tutto questo, no, qualche commento, ragazzi, dobbiamo farlo sul bilancio bancario della settimana. Io ci ho anche provato, perché... ma hai fatto fare di Sanremo, tu scusami. No, ci hai messo tu a parlare di Sanremo. Appunto, volevo parlare delle banche e sono partito da Sanremo, ho fatto un giro lungo in Liguria. 18 miliardi di perdite tra le prime 5, tranne Intesa, nei bilanci 2016. E sono finite, hai notato, in fondo, in ultima pagina del giornale stamattina. Ma come mai? Ecco, mai dobbiamo di nuovo nascondere l'idea che la pulizia è solo cominciata, caro Oscar, e che purtroppo non stiamo raccontando agli italiani che gran parte dei loro risparmi affidati a banche non adeguate purtroppo sarà dedicata a coprire quei buchi nei prossimi mesi con belle conversioni o comunque, come dire, contributi di obbligazionisti al salvataggio. E scusami se ti correggo, ma è tutto da vedere che la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale buttata lì da Atlante poi venga accettata. Solo che abbiamo appreso che forse qualcuno vorrebbe richiederla, e fammi dire che è comunque una ricapitalizzazione. Secondo lui è senza alternative. Cioè, specifichiamo, le due banche venete che sono state, diciamo, salvate almeno in prima istanza dall'intervento del Fondo Atlante, sul quale ricordo che quasi tutte le banche hanno applicato una significativa svalutazione, peraltro molto divergente, qualcuno del 10, qualcuno del 20, qualcuno di molto di più. No? Quindi qui devo capire un secondo chi fa queste valutazioni. Però diciamo che Penati è arrabbiato, per usare un lieve eufemismo. Ha ragione, sì. Penati è molto arrabbiato, diciamo, alla fine si è girato e si è trovato che dietro non c'era più nessuno. E questo dispiace, ripeto, adesso bando all'ironia. Perché a me dispiace perché stimo l'uomo. Gli editoriali di Penati erano veramente la Bibbia anni addietro. Io penso che sarebbe stato meglio continuare ad avere gli editoriali e averlo come gestore di un fondo o di più fondi collegati, perché ci ha messo anche del suo però presentando questi. Non è che lo abbiano drogato lui scrivesse nelle slide dicendo che proponeva un ritorno del 6% per gli interventi su NPL e fino al 15% e più negli equity. E non l'ho scritta io, ma l'ha scritta lui, in cui diceva che il fine conseguibile è comunque dichiarato era quello di riprezzare l'intero sistema degli NPL bancario italiano, e dello stesso equity bancario italiano con 4 miliardi facevi la mosca cocchiera che ridefiniva gli assi di tutto il sistema bancario italiano. Finale che il mercato ti ha preso a schiaffoni, e questa è la verità. E adesso abbiamo il sistema bancario di fatto commissariato dal punto di vista dello stato patrimoniale, commissariato dalle regole europee, che ci piaccia o meno. E secondo me quest'anno, invece, quindi l'anno prossimo, ci commissarieranno il conto economico, perché l'altro tema fondamentale è che quest'anno tutta la liquidità abbondante della BCE piano piano finisce, è ovvio che finisce, e voglio proprio vedere come fanno a rifinanziarsi le banche che hanno centinaia di miliardi di obbligazioni in scadenza, di fatto non riescono più ad emetterle perché quella garanzia statale dei 20 miliardi ha una coperta cortissima e comunque non è infinita, e voglio vedere cosa succede. Prepariamoci, perché non sarà un anno facile neanche per le banche più in buona salute. Ho capito, però molti sperano che non ci sia più l'Unione Europea l'anno prossimo. Addirittura. Perché magari i francesi facciano una scelta avversiva. Io sfoglio i giornali, leggo titoli, qua: Tesoro Banca Italia, un divorzio che stiamo ancora pagando caro. Cioè l'Italia vuole tornare agli anni 70. Chi è l'autore di quel pezzo? Professor Palma. Non è possibile. Non è possibile. C'è un'Italia che spera ardentemente che questo avvenga. Perché è ovvio, perché guarda che fa gola. Ci sono gli economisti pubblici, da questo punto di vista aveva ragione Boccana, gli economisti pubblici e i burocrati pubblici è ovvio che non hanno mai l'interesse a essere disintermediati da catene sovranazionali, perché questo diminuisce il loro ambito di potere personale, di consulenza personale. Gli economisti pubblici sognano di essere il superministro dell'economia che stabilisce insindacabilmente i depositi infruttiferi per diverse categorie di prodotti all'import e all'export, i dazi, e mette le restrizioni al vincolo dei capitali di portafoglio, perché quello è, lo sapete bene cari ascoltatori, se non lo sapete leggete, ma se non ve lo dicono è quello che hanno metteranno in testa gli economisti pubblici. Bravo, bravo, perché quello. Vogliamo pur criticare giustamente la burocrazia europea, ma la verità è che i culi di pietra della burocrazia italiana sono in perfetto conflitto di interessi quando sparano a zero sull'Unione Europea, perché sanno benissimo che la prima poltrona che salta è la loro, questo è il fatto. Esatto, però attenzione, che questo è il motivo per cui la gran parte dei macroeconomisti italiani non si espone nella battaglia per tornare indietro rispetto al divorzio Banca Italia, e che tanti signori magistrati amministrativi e contabili italiani scrivano a favore del fatto di una prospettiva che restituisce il loro potere. Mario, ma questa è la spiegazione però, public choice, scusami, più. Sì, però questo lo capisco, però allora che si debba andare indietro nel tempo all'81, al divorzio Tesoro Banca Italia, quando l'atto unico europeo è del 92, sì. La fissazione del cambio delle valute contro euro è del 99, la circolazione monetaria è del 2002, cioè noi andiamo indietro dell'81, ma se andiamo avanti in questa maniera, con questa sorta di encefalite che sta colpendo e deve essere abbastanza virale, quindi finché non troviamo la terapia, arriveremo più o meno al 47-48 come anno, arriveremo forse al 63 quando ci fu il centro-sinistra. Io scenderei a quota 90, ma diciamo, io, è il ventennio glorioso. Ma... stiamo andando a ritroso, praticamente tra un po' arriveremo, non lo so, agli echi però, della romanità, tutti però in Senato. Voi non potete credere che questo confronto si risolva con più cultura e più conoscenza. No, io sono un tifoso della realtà, su guarda. Su questo terreno non è facendo dotte citazioni di trattati economici e economisti che si vince o si perde. Anzi, vi segnalo tutti, il libro fondamentale, Ilia Somin, che insegna a George Mason, è un libro del 2013 che non abbiamo tradotto, è La democrazia e l'ignoranza. E questo è il punto, si decide in base all'ignoranza, sempre di più a chi è più bravo a evocarla, utilizzarla, e quindi sai, io mi interrogo su dove stiamo andando. Comunque riprendiamo subito il tema bancario dopo l'interruzione, sì. Perché appunto abbiamo con noi Rolando Maria Sinone della Fabi per capire cosa c'entra con tutta questa geografia di fumo e macerie, speriamo di no, ma insomma macerie parecchie del sistema bancario, questo accordo che è stato firmato in settimana, tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci qui, tornati in studio col compare dei conti della belva, Oscar Giornino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Baffè. Eravamo arrivati alla sintesi della settimana alle nostre spalle con questi 18 miliardi di abbattimento di valore per i 5 maggiori istituti bancari, insomma un bilancio, quello dei conti 2016, che conferma non proprio questa grande salute, e le novità della presa d'atto da parte amara e un po' tardiva di Alessandro Penanti di Questio, cioè di Atlante, che è finita, il grande disegno sugli NPL di Atlante è finito, si limiteranno a utilizzare i soldi restanti per l'aumento di capitale delle due venete fuse, e ha anche annunciato che lì ci sarà bisogno dello Stato pure lì. Ma su questo sfondo, però, la scorsa settimana, mercoledì della scorsa settimana, anche un'intesa tra le imprese bancarie e i rappresentanti dei lavoratori bancari, che per una volta non è solo sulla crisi, gli esuberi, come si fa a gestire in maniera il più possibile volontaria e mutualistica il problema della riduzione di migliaia e migliaia, perché questo è stato quello che abbiamo alle spalle e che abbiamo ancora di fronte a noi, di esuberi nel settore bancario per abbattere il cost income nel conto economico delle banche, bensì una questione di fondo che guarda al futuro, guarda al ritorno alla redditività delle banche, perché è stato siglato un patto sulle cosiddette vendite sostenibili, cioè su come chi lavora per le banche, i vertici che scrivono e fanno le scelte di fondo per la redditività bancaria, che tipi di prodotto vendere, quali sono gli incentivi interni delle reti, eccetera, mettano insieme, trafilino anche però l'interesse della tutela della fiducia, che è il fondamento in questo settore di mercato, che quando viene meno, ohimè, viene meno tutto, nei confronti del cliente. Allora, che ci sia questo al centro di un patto sindacale è un ottimo segnale, sono secondo me, Carlo, Oscar, Alberto. E per parlarne, per spiegarcelo meglio, abbiamo con noi qua Rolando Maria Sileoni, che è alla testa della Federazione Autonoma Bancaria Italiana, insomma, il pilastro dal punto di vista della rappresentanza del settore bancario insieme ai confederali, però il pilastro vero fuori dai confederali. John Wayne del sindacato. Sì, sì, ma sì, anche quello che insomma quando si tratta di picchiare i pugni sul serio su questioni di fondo lo fa davvero, ecco. Altri sono un po' più corrivi, lo sai che io sono critico su molti atteggiamenti sindacali all'interno delle banche, a volte in alcuni istituti mi è sembrato che fosse un po' troppo corrivi con il management e giravano pure insomma interessi impropri. Però detto questo, Lando Maria Simeoni, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie per il John Wayne. Beh, non è poco, ma insomma questa intesa perché è importante secondo voi? Perché non è uno, perché non è una operazione cosmetica, ma è un'operazione chirurgica, perché è un accordo storico sotto ogni punto di vista, perché per la prima volta in due fasi distinte, il sindacato aziendale e del gruppo bancario, e poi in una eventuale seconda fase le segreterie nazionali con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, potranno, noi potremo entrare nel merito delle vendite commerciali, delle vendite dei prodotti finanziari. In sintesi, il sindacato aziendale o il lavoratore che si rivolge al sindacato aziendale si accorge che un prodotto finanziario non va bene, un prodotto finanziario tra virgolette fasullo, c'è una commissione bilaterale in piedi a livello aziendale di gruppo che in qualche modo si fa carico appunto del problema. Se non si trova un accordo si va in fase nazionale fra le segreterie nazionali e l'ABI, se non si trova un accordo neanche in questo caso ognuno poi è libero di agire o attraverso la procura o rivolgersi alla Consob. Quindi ci sono due fasi estremamente importanti di controllo che prima non c'erano, che ci permetteranno di garantire chi lavora in banca, ma soprattutto appunto di garantire tutta la clientela. Segretario, però segnaliamo il fatto importante che in assenza di un regolatore e di un supervisore che faccia il suo mestiere bene, visti i risultati, è benvenuto il fatto che il sindacato si candidi a un modello, se posso dire, di controllo distribuito, di controllo popolare della qualità e della modalità dei prodotti finanziari, perché troppe volte i risparmiatori si sono sentiti ingannati dalla persona, non da solo dalla banca, dalla persona che stava di fronte a loro e che piazzava qualche obbligazioncina, diciamo, discutibile. Questo è importante perché se è necessario recuperare una credibilità anche personale e professionale, il sindacato non può dichiararsi mera cinghia di trasmissione degli ordini bancari. Ecco, questo è importante che voi lo specifichiate. Perché... No, siamo perfettamente d'accordo su questo, no? L'operazione è fatta in piena trasparenza, noi vogliamo garantire la massima trasparenza, non solo a chi lavora, ma soprattutto alla stessa clientela. Il punto politico però è un altro, se lei me lo permette. Il punto politico è che per la prima volta il sindacato entra nelle politiche commerciali dell'azienda. Sì. Ecco, e contrattualmente questo non era mai stato previsto, e per la prima volta noi riusciremo a controllare la gestione della banca attraverso una politica commerciale, quindi è una garanzia comunque in più che prima non c'era, a vantaggio appunto della stessa clientela. Questo... E tenga anche presente che non ci sono, che noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di voce o di potere contrattuale rispetto ai sistemi incentivanti, cioè ai premi. Esattamente, questo è il problema. Questo, perché se l'incentivo era vendete purché sia, vendete a volume, sì, non fate domande sulla natura del prodotto e sul target, è chiaro esattamente, ma noi per anni, per almeno 15 anni, abbiamo cercato di condividere con l'azienda quelli che in gergo vengono chiamati sistemi incentivanti, ma l'azienda non ha mai voluto dare modo al sindacato di andare a controllare come questi premi venivano in qualche modo dati. L'altro punto fondamentale è che noi da questo momento in poi potremo in qualche modo, come dire, garantire noi stessi appunto la clientela, perché fino ad oggi c'era il tema delle cosiddette pressioni commerciali. Sì. Che per chi ci ascolta, diciamo che dice poco, no? Ma il tema delle pressioni commerciali è il seguente: ogni mattina il dipendente che entra in banca riceve mail su quanti conti correnti deve aprire, su quante polizze assicurative deve vendere, su quanti mutui deve vendere, su quante azioni deve vendere e su quante applicazioni deve vendere. Se non le vende viene trasferito, se non le vende non fa carriera. Questo è il punto fondamentale. Noi con questo accordo abbiamo regolamentato e abbiamo in qualche modo, come dire, cancellato quello che era un atto unilaterale che fino ad oggi veniva esercitato soltanto dalle parti. E io posso dire, allora, io sono abbastanza, come dire, colpito dalla portata, dalla profondità di questo accordo, che se dovesse effettivamente realizzarsi sarebbe rivoluzionario, sarebbe storico, sarebbe peraltro un nucleo di effettiva cogestione, certo, tra i vertici della banca, o perlomeno coloro che sono responsabili delle politiche commerciali e di marketing, e il sindacato. Proprio per questo motivo, e credo che Sileoni possa, come dire, darmi ragione, nel senso, io sono scettico, sono profondamente scettico, glielo dico da ex bancario, anche se non sono mai stato nella rete, però conosco le sofferenze derivanti da pressioni commerciali, ma non lo, guardi, non lo metto in dubbio, io credo solo che quando io ho visto fare e rifare strategie commerciali nello spazio di una notte, con le porte girevoli di manager che arrivavano magari dalla grande distribuzione, dalla telefonia, eccetera, e purtroppo le reti, poi bisogna anche, c'è anche un problema di qualità e qualificazione del personale che sta in rete, no? Certo. Perché poi il rischio che si finisca, si parte con la cogestione e si finisce con la connivenza e con la collusione. Io faccio l'avvocato del diavolo, approfittando del fatto che ho buttato 15 anni della mia vita lavorando in banca esatto. Allora faccio anche l'avvocato del diavolo. Però il problema qui non è tanto, cioè la cogestione implicherebbe forme di condivisione delle decisioni, delle strategie. No, qui il problema è una forma di controllo formalizzato e verifica incrociata che consente però per la prima volta, rispetto ai prodotti, alle strategie, alle prospettive di ritorno, alla rischiosità per il cliente che mina la fiducia delle banche, e si è capito in questi anni quanto poi la rovinosità della perdita di fiducia intacchi lo stesso conto economico e quindi picchia sui lavoratori. Il lavoratore bancario fino ad oggi, e il messaggio ancora non è stato molto chiaro perché non è passato, nonostante io e i miei colleghi abbiamo fatto il giro di tutte le trasmissioni, ma il messaggio, il problema è stato che il lavoratore non poteva opporsi alle direttive aziendali, perché c'è una norma del contratto nazionale che dice che se il lavoratore non, come dire, va per conto suo e non rispetta quelle che sono le direttive aziendali, può essere anche licenziato. Elevare questa mannaia che era, insomma, sospesa sul capo dei dipendenti, e per la prima volta aprire alla possibilità di questo, secondo me è molto interessante. C'è un altro aspetto fondamentale, no? che siamo riusciti in qualche modo a mettere in chiaro, cioè che il lavoratore bancario si accorge che qualcosa non va su questo prodotto, viene garantito anche rispetto alla carriera, cioè viene garantito rispetto alla stessa riservatezza, certo, no? Perché prima fare il whistleblower, cioè il segnalatore, esatto, si rischiava la testa, per essere chiari, esatto, si rischiava di essere sbattuti in un sottoscala. Questa era una situazione che noi abbiamo rincorso da anni di fronte all'indifferenza completa delle banche, che finalmente oggi hanno capito che devono, come dire, non solo rifarsi il look, ma devono agire in profondità con un'operazione chirurgica che parta dalla base. Cioè qui il problema è non è solo il risparmio cosiddetto, cioè il vero problema è il rapporto che c'è allo sportello tra chi rappresenta la banca e la stessa clientela. Ecco, segretario, però non dimentichiamo una cosa molto importante: con la MiFID 2 l'anno prossimo dobbiamo tener conto anche del profilo di chi compra, non soltanto della responsabilità di chi vende. E qui riapriremo un grande capitolo. Però intanto qui c'è il tema dell'educazione. Ok. Allora, intanto grazie a Lando Maria Sileoni, grazie anche per aver spinto questi anni su accordi di questo tipo qua. Noi torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con la compagnia dei compagni dei Conti La Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ora cambiamo argomento e andiamo a questo annuncio che di solito noi non siamo grandi tifosi degli scioperi, ma di fronte all'agitazione annunciata con largo anticipo e al motivo dichiarato per cui i commercialisti hanno deciso di dire allo Stato: signori, o si cambia su 12 punti oppure noi iniziamo, pur consapevoli dell'importanza del nostro ruolo di tramite professionale tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, ad alzare il livello della nostra protesta civile, perché stiamo andando non avanti ma indietro. E questo, uno dei 12 punti fondamentali, sono il nuovo regime degli adempimenti previsti con il decreto legge connesso alla legge di stabilità per partite IVA, quindi il regime che appunto è entrato al regime pieno torna a essere, diventa trimestrale per le comunicazioni dei dati, spesometro da che bisognava abolirlo ce lo troviamo rafforzato, il ritorno alla logica dei clienti fornitori, aggravi enormi di costi di adempimento, i commercialisti potrebbero dire noi incassiamo di più dai nostri clienti grazie Stato, e invece i commercialisti dicono su questo come su tante altre questioni, la contabilità per cassa, il regime sanzionatorio dei nuovi adempimenti, la comunicazione bene ai soci, la liquidazione dei dati IVA, la rottamazione delle cartelle eccetera eccetera, signori, accettate un confronto vero invece di continuare a fare decreti enorme a gogo. Allora, intanto grazie per questa posizione, il mio grazie personale, ma per spiegarla meglio e per farci capire come è andato intanto il primo tavolo di confronto con l'amministrazione tributaria del governo, abbiamo con noi il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Marco, buon sabato e grazie di essere con noi. Buongiorno anche a tutti voi, grazie a voi di avermi chiamato. Eh no, grazie a voi per quello che fate. Non so se ha capito che il mio spirito è esattamente il contrario. Ecco, io dico finalmente, ecco, io non voglio criticare il passato, ma dico che questo approccio mi sembra molto molto molto apprezzabile. Ma come è andato il vostro primo incontro? Ma innanzitutto volevo premettere che nemmeno noi siamo molto favorevoli al discorso, allo sciopero, no? Ecco, tant'è che è il primo sciopero di una categoria di professionisti nella sua storia, quindi già. È chiaro. Tecnicamente è una serrata, possiamo dirlo, una serrata dimostrativa. Esattamente, quindi non è certo nel nostro DNA, però evidentemente siamo arrivati a un tal punto che non potevamo farne a meno. Ecco, è stato fatto una prima manifestazione storica anche quella in piazza Santi Apostoli il 14 dicembre, gremita di tutti i commercialisti provenienti da tutta Italia proprio per manifestare il suo disagio, e il 5 gennaio abbiamo proclamato il primo sciopero di categoria in base a un codice di autoregolamentazione, quindi pienamente legittimo, perché anche la commissione di garanzia ha dato parere favorevole a questo sciopero. È chiaro che questa agitazione viene da uno stato che dei fatti che è sotto gli occhi di tutti, cioè qui si continua a addossare alle imprese e quindi indirettamente anche a noi professionisti che le assistiamo tutta una serie di adempimenti che lei ha indicato correttamente contenuti nel 193, nella legge collegata fiscale collegata alla legge stabilità e nella stessa legge stabilità. Con grossi problemi di carico di adempimenti e anche costi alle imprese. Noi abbiamo quantificato minimo 500 euro l'anno per impresa in più di costi, quindi da un lato si fa vedere che la pressione fiscale diminuisce, però poi c'è tutta una serie di situazioni che vanno comunque a gravare anche sulle imprese e sui cittadini. E quindi noi abbiamo detto sì, dobbiamo alzare i toni, parliamo seriamente, sediamoci a tavolo. Anche devo dire la verità, a volte delle cose che uno legge quando hanno annunciato, cioè, per esempio la contabilità per casse, il nuovo regime naturale per le imprese minori, no? Quindi 5 anni rimanere. Bellissimo, che bella cosa. Dice, ma naturalmente io però se poi per quelle piccole c'ho l'aggravio immediatamente a cambiare il regime di contabilità, ho la facoltà di rimanere col vecchio regime? Risposta no. Dice, ma come, me la presentate come una semplificazione e finisce per essere un aggravio? Questo è proprio un esempio concreto, no, di come anche andando avanti si può andare indietro. Questo è l'esempio eclatante, perché da un lato si dice che è un principio di buon senso, perché comunque il contribuente in questo caso andrebbe a pagare effettivamente su quanto è incassato o pagato. Di fatto comunque crea dei grossissimi problemi, perché comunque c'è un aggravio appunto si parla di microimprese, perché si parla di contabilità semplificate, quindi tra l'altro contabilità, imprenditori che sono la stragrande maggioranza, bene stabilibile, essere chiari, dei contribuenti in Italia, e che comunque non sono strutturati al proprio interno, non possono tenere una contabilità ordinaria e quindi non hanno capacità di strutture per poter andare a individuare e segnalare quelli che sono effettivamente i pagamenti o gli incassi in maniera sistematica, tant'è che proprio hanno scelto quel regime perché è un regime semplificato. Noi abbiamo chiesto che questo regime, chiesto a gran voce da quello che sappiamo tra l'altro da Rete Imprese, e non capisco onestamente le motivazioni, non ne capisco attualmente le motivazioni, perché creano comunque, ripeto, dei problemi di aggravio, di costi, di gestione, ma soprattutto nel 2017 ci sarà un problema di provvisionalità, perché non essendo più prevista l'esposizione delle rimanenze finali, cioè delle rimanenze, la gestione delle rimanenze in questo tipo di contabilità, nel 2017 avremo l'esistenza iniziali come costi, ma non avremo le rimanenze finali. Esatto. E quindi avremo tutti i bilanci di queste società in perdita o comunque allora, con utili ridotti. Comunque io prendo l'impegno con voi, non tiratevi indietro troppo facilmente. Questo è il mio unico timore, perché capisco però che non potete fare, tante volte l'agenzia tributaria e il ministro hanno detto guardate, rendetevi conto, voi avete una funzione fondamentale. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Miau. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta ai compari dei conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Eccoci qua, abbiamo purtroppo tranciato un pochino il nostro... Siamo stati un po' tranciante anche ecco, noi. Però ragazzi ci torniamo sopra perché tanto sabato siamo ancora in tempo. Io spero che loro reggano davvero le richieste, io sono tutte e 12 punti sono importanti e c'è un ragionamento da fare anche con lui. Bravo, bisogna un po' pungolarli questi commercialisti, perché non è che mi hanno convinto molto questa storia dello sciopero, ripeto, è una serrata e se no, tu scrivi che è sciopero, no, chiaramente i contenuti sì, no, ma nel metodo, caro Oscar, se tu scrivi che è sciopero stai ammettendo implicitamente di essere dipendente dello Stato e italiano. E tu sai che lo Stato li ha obbligati civilmente, patrimonialmente, finanziariamente, certo, con le sanzioni penali proprio per veicolare questo oggettivo limite. Oramai loro sono dei funzionari dello Stato addetti alla raccolta pagati dai clienti privati, questo è quanto. Ma il loro modello organizzativo, caro Oscar, proprio a fronte di questa ingerenza deve cambiare, perché sennò diventeranno sempre più schiavi dello Stato. Certo, perché l'82% degli studi al sud è individuale, solo al nord c'è qualche 30% di studi associati. Sì, comunque anche a nord sì, non è che stiamo parlando. Quindi c'è un tema di efficienza, di modello organizzativo, di tecnologie. Se no, mi spiace, se non aumenta la produttività e la capacità di fare sistema anche dei nostri amici professionisti, non andiamo molto lontano. Certo, poi ci vogliono gli studi pluriprofessionali, questa è la verità. Però detto questo, No, diciamo anche un'altra cosa, siccome c'è gente che scrive dicendo perché difendete i commercialisti che guadagnano un sacco di soldi, eccetera, no, eccetera, ragazzi. No, cioè, ma fammi fare due difendiamo chi lavora per dare un servizio a valore aggiunto ai cittadini, esatto, che sono vessati da normative e norme che sono demenziali e che magari quel tempo e quel denaro lo potrebbero dedicare costruttivamente a fare molto altro. Parliamo proprio dei commercialisti. Comunque per cui... voglio smentire nel punto, il reddito medio dei commercialisti esperti contabili nel periodo 2007-2014 è diminuito tra l'11 e il 20%, con quelli più giovani particolarmente penalizzati con punto del 20-25%. Quindi mi spiace, ma dobbiamo smentire queste cose. Esatto. E questa inefficienza, scusa, è anche il risultato di una scarsa organizzazione. Allora, rapidissimamente, qualche telefonata, cominciamo. Ah, vedo che c'è un commercialista che ci chiama. Giuseppe? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino, la ringrazio per l'opportunità, la seguo sempre, devo fare i complimenti. Sì, figurati. Mi trovo spesso d'accordo con le sue tesi. Benvenuto alla minoranza, allora, ma comunque ci dica. Allora, io sono un giovane commercialista di Roma. Allora, volevo dire che la nostra professione è continuamente svilita e attaccata. In primis dalla politica, se si ricorda Renzi con i suoi proclami, eliminiamo il commercialista, ma anche dallo stesso Grillo, insomma, dai 5 Stelle. Allora, noi purtroppo in questo momento siamo attaccati con una concorrenza allucinante, quindi i prezzi si abbassano, subissati da una normativa fumosa che non ti permette di capire cosa fare. Cioè, è un momento veramente di crisi profonda per questa professione, e io penso che il problema sia il fatto anche che non siamo rappresentati, perché in Parlamento vi è un commercialista. Purtroppo in questo paese i giuristi hanno sempre la meglio, e anche in questo caso mancano figure tecniche che possano, diciamo, dirigere un po' quello che è la normazione, la normativa, perché è assolutamente, è un delirio adesso, è proprio un delirio. Quindi va bene, questa, soprattutto appunto per quanto riguarda i commercialisti di basso livello, cioè quelli che fanno comunque le contabilità, che non sono poi tutti, ecco, però sono la maggior parte. Sentiamo un'altra collega che ci manda da Varese, Roberta. Roberta, prego. Buonasera, buongiorno, scusi. Prego. Io sono assolutamente d'accordo con il mio collega che ha parlato prima, e volevo anche evidenziare una cosa: i costi dell'agenzia sono diminuiti, dell'Agenzia delle Entrate, per il funzionamento loro, sono diminuiti del 40% in pochi anni. Quindi vuol dire che il 40% dei costi li abbiamo assorbiti certo, noi, è così. Senza aumentare esatto. Nessun un euro di parcella, perché mi ritrovo a 48 anni a veramente guadagnare meno della mia impiegata. Il che è veramente svilente. Lo so, Roberto, ma oltretutto è ancora più svilente. Ma io questo lo so per esperienza, visto le lettere che ricevo, gli insulti, che poi la gente non ci creda minimamente. Questo è il punto. Ma io lo farei venire qua. Infatti, lo so. Sabato sono, invece che stare a casa mia, sono a inserire le fatture di un mio cliente. Lo so, lo so, e siccome lo so anche, naturalmente, io credo che la difesa vostra sia la trincea avanzata della difesa del contribuente, poi, per questo che io, caro sì, Alberto, vero, prima ci siamo preoccupati di dire che noi vogliamo anche che voi abbiate studi professionali, in maniera tale che possiate difendervi meglio da uno Stato che dice: io ti rendo col tempo sempre più obbligato al cliente, tu devi capire che sei un mio dipendente, anche se ti paga il cliente. Lo Stato certo. Si è molto portato avanti in questo, sì. Penalmente, civilmente, eccetera. Quindi la vera risposta deve essere invece quella d'impresa, caro d'impresa. Alberto. Posso confermare quello che diceva la collega? Le donne guadagnano il 45% in media meno degli uomini, le donne giovani il 61% in meno degli uomini. Giusto per solidarietà, capire. Roberta, solidarietà Roberta. Allora, noi continuiamo con questo discorso fiscale, che è un discorso di riflessione ordinamentale, come vedete, noi non ci mettiamo a urlare, eccetera. È un discorso di riflessione, è un discorso che prende atto del fatto che in questi anni il tasso di crescita della spesa corrente, tragedia al nostro paese a cui abbiamo dovuto scatenare dietro i cani dell'aumento fiscale, è molto sceso, perché dei governi hanno capito che non si poteva andare avanti così, si è messo mano in questi anni anche a dei bonus e sgravi fiscali, eccetera, eccetera. Siamo lungi dall'avere pressioni fiscali che dovrebbero essere per avere effetti meno ostili sulla crescita, ma insomma un certo percorso, una certa riflessione è iniziata. A fronte di tutto questo, manovretta richiesta dall'Unione Europea per il maggior deficit atteso nel 2017 italiano, confronto aperto, il governo dice: bene, i tre quarti di questi 3,4 miliardi li faremo da aumenti di entrate, il resto da tagli, interventi sulla spesa, e nei tre quarti di maggiori entrate ci sono anche gli aumenti di accise. A questo punto alcune decine di parlamentari del PD raccolgono delle firme e dicono: ma no, scusate, in coerenza all'impostazione che avevamo assunto, e adesso ritoccare le accise è sbagliato. E succede un po' un pandemonio, perché il governo, avete letto sui giornali, si arrabbia, crede che sia un segnale politico. Noi abbiamo con noi colui che ha assunto l'iniziativa personale, poi sostenuta anche da suoi colleghi, cioè Edoardo Fenucci, deputato del PD, primo firmatario di questa mozione. Grazie di essere con noi. Grazie a lei, buona giornata. Ci può dire innanzitutto, ma l'iniziativa è di merito oppure ha qualche fondamento tutta la cosa politica che poi si legge intorno? È assolutamente di merito e tiene conto di quanto fatto nei mille giorni del governo Renzi. Il governo Gentiloni si esprime pubblicamente anche di fronte alla MEI di voler portare avanti una politica in continuità rispetto al governo Renzi, e non possiamo certo metterci ad aumentare le tasse dopo aver fatto per tre anni una campagna identitaria di prospettiva di riduzione della pressione fiscale. Ci saremmo riusciti forse meno rispetto alle nostre aspettative, però certo è che noi vogliamo andare avanti rispetto a questa strada. Il segretario nazionale in tutte le sedi interviene dicendo che i prossimi passi saranno la riduzione dell'IRPEF, con attenzione alle famiglie più numerose, quindi con l'idea di introdurre il quoziente familiare. Non saremo certo credibili se noi ci mettiamo, come nella Prima Repubblica, ad aumentare le accise, insomma tasse sulla benzina ed altro, che pare proprio uno stratagemma che non regge e che ci fa perdere la faccia di fronte non soltanto all'Europa, ma di fronte soprattutto agli italiani. Perché Renzi poi nel suo nuovo blog, proprio uno dei primi interventi che aveva fatto, era tornato su questo tema fiscale pochi giorni fa, poche settimane fa, dicendo la sinistra ha un rapporto problematico con le tasse e noi dobbiamo, da questo punto di vista, rottamare il complesso Dracula, per così dire. Cioè si riferiva a un atteggiamento che viene veicolato, praticato e anche azzeccato addosso all'immagine del PD come gli assatanati sostenitori e praticatori in realtà di aumenti fiscali, no? Sì, non è una novità. Renzi dal primo giorno di insediamento, ma in realtà già nelle campagne elettorali precedenti che lo hanno portato a Palazzo Chigi, ha fatto della battaglia contro le tasse una battaglia identitaria, lo dicevo prima. Oggi noi non ci possiamo permettere che, venuto meno Renzi, si torni a pensare alla tassazione, tra l'altro una tassazione che colpisce in maniera regressiva i più deboli. Esatto, una tassazione piatta, quindi sulla benzina, quindi colpisce i più deboli anziché i più forti. Poi si ripercuote anche al... Ma perché il governo, perché al MEF e al governo hanno avuto questo riflesso condizionale? Perché è la cosa più semplice, non ci hanno pensato a questa cosa politica. Perché, secondo lei? Ma a volte è semplicemente perché poteva essere la soluzione più facile, ma noi le soluzioni più facili non le vogliamo percorrere. Noi vogliamo andare avanti con la strategia che nel mese di dicembre di quest'anno, come lei sa benissimo, ci ha portato a disinnescare clausole di salvaguardia per 15 miliardi di euro, quindi non noccioline. Beh, sì, però quelle clausole di salvaguardia, scusi, ce ne sono per 19 l'anno prossimo. Scusi, sono tre anni che ricacciate indietro le clausole. Che è decisivo, perché partiamo al di là di quelle delle 19 del prossimo anno, che sono comunque collegate. Noi a gennaio, se non avessimo disinnescato quelle clausole, cosa sarebbe accaduto? Le faccio questa domanda. Sicuramente sarebbe stato peggio. Accise, c'è problema. IVA, anche l'IVA. L'IVA oggi sembra che non si possa più toccare, però noi il primo gennaio sarebbe scattata, no? Lei lo sa benissimo. Guardi, sono d'accordo, io mi limito a dire che sogno interventi strutturali invece che prendere a calcio la lattina di anno in anno, perché se no ne usciamo ogni anno, e più degli strumenti di intervento li dobbiamo, come sa, concentrare sull'evitare che scatti una lama che noi abbiamo spostato di un metro più avanti, ma non abbiamo fatto in modo che la lama sparisse. Questo è il punto. Posso dire una cosa? Mi scusi Fanucci, scusi, però in tre anni di governo Renzi, disinnescando, in realtà calciando la lattina in avanti e facendo cumulare le posizioni, inventandosi una riduzione di pressione fiscale fatta a deficit che non ha avuto impatti tangibili sulla crescita. Io sono d'accordo con lei che bisognerebbe piantarla di aumentare le accise, ma mi permetta, bisognerebbe anche avere una politica economica un filo più efficace, perché qui abbiamo svariate decine di miliardi che in tre anni sono finiti nel nulla. Quindi non è che voi siete gli eroi della lotta, diciamo, contro le accise, ecco, glielo dico da contribuente. Però io do atto a Fanucci, che ha firmato quel documento, che pubblicamente sapevano perfettamente che avrebbero fatto casino politico, suscitato la reazione del governo, quello che abbiamo letto. Però pongono un problema di merito. Io devo dire, preferisco i problemi di merito, perché hanno a che vedere con la linea politica, ma hanno a che vedere con il governo del paese, piuttosto che solo confronti che capisco sono legittimi. Su, è meglio il congresso, è meglio le primarie poi con un proporzionale neanche di coalizione, cosa servono lo sa Dio. Però voglio dire, questo è un problema di merito, di riflessione su un tema di fondo di questi anni. Per quindi, secondo me, comunque, Fanucci e chi ha firmato dà un grande contributo a capire, a riflettere. Poi è ovvio, Mario, noi la pensiamo come hai appena detto, però loro lo pongono apertamente il problema, e quindi io, Fanucci, lo ringrazio e lo invitiamo senza dubbio, perché credo che non ritireranno il loro strumento, e vediamo poi come va avanti davvero la manovra correttiva, perché tanto per essere sinceri, poi Renzi ha fatto scrivere sui giornali qui la manovra correttiva, voi avreste dovuto dire che non ce n'è proprio bisogno, che è un altro paio di maniche ancora. Grazie a Fanucci, torniamo tra... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, un'altra telefonata rapidamente. Noi siamo tornati in studio con Palla dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Colpi della Belva, conti della Belva, colpi della Belva. Io ho detto un po' di colpo, no? Ho detto colpi della Belva, ho detto prima colpi della Belga e mi è venuto insalata un dubbio. Ecco, sì, no, non c'è una belga procaccia in studio, perché oggi Carlo Alberto non ce l'ha portata, purtroppo, questo, perché quando c'è Renato Cifarelli, Carlo Alberto riserva delle sue fantastiche sorprese, quando invece siamo solo noi, niente. Caro Mario, caro Mario, sa che io sono felicemente sposato e tu sei, non dico come, ma felicemente sì, e quindi, come vedi, niente. Invece sa Renato Cifarelli guida Larry Davidson, esatto, i motociclisti si sa che è un allora pochino, abbiamo in linea, e lo ringraziamo per aver anche atteso, Adelio, che ci chiama dalla provincia di Napoli. Adelio, siamo lì? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, lei voleva parlare invece, a proposito, mi dicono, dell'accordo bancario, quello di cui abbiamo parlato con Lando Sileoni. Diciamo che entro a gamba tesa, nel senso che io lavoro da 26 anni in banca e sono il gestore di relazione, quindi investimenti a tutto tondo, per cui le pressioni commerciali le conosco bene. L'azienda per la quale lavoro, e non e dico conosce quale, quindi anche, diciamo, le metodologie di incentivi, esatto, attraverso cui la rete fa arrivare gli input a chi poi ha il contatto col cliente. Esatto. Allora, l'azienda ufficialmente ci ha sempre detto che il cliente è centrale per noi, dobbiamo far crescere il suo capitale ufficialmente. A porte chiuse, diciamo che ci dice tutt'altro. I sindacati nel passato si sono interessati del sistema incentivante, però ovviamente poco rispettoso della bravura o della correttezza dei colleghi, molto più sulla base relazionale. Per cui questo accordo dice, ma lo vedo come dire, abbastanza fumoso e di facciata. Un po' scettico, un po' come Carlo Alberto. Molto scettico. Però è meglio che ci sia piuttosto che no, consente delle armi nuove, no? No, credo che sia solo di facciata, anche perché faccio un esempio. Se l'azienda deve fare reddito, cosa preferisce collocare un'operazione, un fondo che ha un upfront forte, oppure un fondo che ha un upfront magari più basso o nullo, vero, che però è in linea? Perché poi bisognerebbe andare a vedere, ecco, nella qualità dell'investimento, i MiFID come sono stati fatti, esatto, come sono stati aggiornati, esatto, le politiche commerciali, che obiettivo hanno, che impatto hanno sulla redditività della filiale o della banca. Non è una cosa semplice. No, non lo è per niente. Lei ha profondamente secondo ragione. Secondo me è molto, ripeto, di facciata, perché poi i sindacati hanno avuto anche i loro... io vengo da una banca dove i sindacati hanno anche loro le loro belle corresponsabilità, esatto, una bella mano per portare certe situazioni in avanti. Io sono del tutto d'accordo con lei, perché è vero, cioè quando c'è un prodotto che ha delle commissioni upfront molto sostanziose, sul quale la banca ha fatto piani commerciali e di redditività anche pluriennali, è molto difficile. Cioè, se il sindacato vuole arrivare a spingersi a queste latitudini, io temo che ci sarà veramente un conflitto difficilmente risolvibile. Poi, non per rubarle spazio, però io dico, se il sindacato si fosse ribellato quando arrivavano ordini di alterare i questionari MiFID per l'adeguatezza, ecco, diciamo, forse adesso non avremmo su questo accordo storico, questo retrogusto un po' amaro, diciamo, di buoi scappati e di stalla chiusa. Questa, ripeto, come è la, diciamo, mia posizione, Napoli, strettamente personale, ecco. Come diciamo a Napoli, le porte fiera roppa rubate, cioè le porte di ferro, dopo che ormai è stato già rubato. È stato svuotato il cavò. Chiusa la stalla e buoi scappati. Ce ne sarebbe molto da parlare, purtroppo i tempi sono brevi. Adelio, posso chiedere una cosa? Possiamo, visto che abbiamo il suo numero, però, visto che è intervenuto, e noi apprezziamo molto il modo in cui lo sta facendo, portando professionalità e anche voglia di parlarne in pubblico, possiamo richiamarla? Perché questo è uno dei temi su cui noi torneremo di sicuro, per tentare di approfittare al meglio della sua disponibilità. Si deve parlare in pubblico che della centralità di quello che fa in una banca come quella che ha descritto. Possiamo? Sì, certo. Allora, io ci conto. Allora chiedo alla regia poi di darmi il suo numero e ci sentiamo all'inizio della settimana. Intanto grazie per questo intervento. Noi dobbiamo, nella nostra agenda quotidiana, cara compari, andare a un'altra questione. Adesso tac, volgiamo lo sguardo al contesto internazionale. Abbiamo detto che in questi ultimi giorni Trump ha stato chiamato dai suoi collaboratori a rimediare un po' di pasticci enormi che aveva fatto. Ha cambiato politica sulla Cina, ha riconosciuto che alla Cina di Pechino, che no, una sola Cina torna a essere drive di crescita, dopo aver detto a Taiwan l'esatto opposto, aver suscitato l'entusiasmo di Taiwan. Ricevendo Shinzo Abe, giapponese, cambiato radicalmente impostazione sull'avanzo, peraltro record commerciale giapponese nei confronti degli Stati Uniti. Insomma, vediamo come va avanti la sistemazione della non contendibilità, della contundibilità della presidenza Trump. Ma intanto noi dobbiamo porci un problema, visto che i tedeschi iniziano a rispondere alzando il tono a Trump e a considerarlo un vero nemico dell'Unione Europea e anche in quel caso del surplus di bilancio, del surplus commerciale, perdonatemi, tedesco. Ma Trump è una vera novità dal punto di vista dell'interventismo nell'economia, del dirigismo, del protezionismo nel quadro della storia americana, oppure lo è molto meno di quanto sembri? Questa domanda, che è una domanda per me importantissima, perché dall'Europa si continua a guardare l'America e i giornalisti hanno la loro colpa, più alla luce di stanche, inerziali ripetizioni di luoghi comuni che davvero conoscendo i fatti, perché per conoscere i fatti bisogna approfondirli, saperli, bla bla, è uscito un libro che io richiamo all'attenzione di tutti, per il Mulino, e il titolo è Industria, Governo, Mercato, lezioni americane, e il problema che si pone è proprio questo, analizzando innanzitutto con una evoluzione del tempo e in maniera orizzontale molti settori fondamentali dell'economia del mercato americano, si pone il problema: ma è vero, come si dice, che in America l'interventismo pubblico avviene solo quando c'è un fallimento del mercato e per il resto no? Come si vede nei sondaggi, quando gli americani sono sempre disallineati rispetto all'Europa e davvero a percentuali molto più alte diffidano dello Stato che interviene, oppure se andiamo a fare un'analisi oggettiva troviamo che invece questa è più apparenza che sostanza, perché il governo A c'è sempre stato, B non c'è stato solo nella tecnologia della difesa, che pure hanno avuto poi effetti fondamentali, c'è stato quando le cose andavano malissimo dopo 29, sì, ma c'è stato anche quando le cose vanno bene, c'è sempre, c'è di più o di meno che democratici o repubblicani, non è vero, c'è sia sotto i democratici se sotto i repubblicani, ma è vero che i democratici sono più globalisti e i repubblicani meno, neanche questo è vero per essere certi, tanto è vero per esempio, oggi vi segnalo, c'è un'intervista un dirigente della SACE che si prende su un settimanale finanziario che esce il sabato, qui per ragioni di impresa mi chiedono sempre di non farne il nome, ma insomma abbiamo finanza, se non diciamo stupidaggini, però detto tutto questo c'è un'intervista in cui si fa il conto dei provvedimenti protezionistici assunti sotto la presidenza di Obama e sono oltre 1000 da questo punto di vista. Allora, ecco, questo libro si intitola, per chi lo volesse leggere, Industria, Governo, Mercato, Lezioni Americane. Gli autori sono due economisti italiani in cattedra, Marco Di Tommaso e Mattia Tassinari, e noi abbiamo Marco Di Tommaso con noi, io lo ringrazio. Buon sabato, grazie di aver accolto il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi e buon sabato. Innanzitutto corregga qualunque delle cretinate che possa aver detto a suo giudizio fino a questo momento. No, assolutamente, la sua domanda è chiara e la tesi che noi portiamo avanti in questo libro è esattamente quella che lei definiva, cioè sostanzialmente noi troviamo continuità di lungo periodo nell'atteggiamento del governo nei confronti dell'industria americana. Questo lavoro noi partiamo proprio dall'inizio, George Washington, però naturalmente ci concentriamo in particolare sugli ultimi decenni, in particolare sull'amministrazione Obama, e immaginiamo anche che questo lavoro serva per capire molto di più del nostro presente. Ecco, io volevo ridare il numero preciso perché prima sfogliando meno finanza non mi veniva la cosa. L'intervista è a Alessandro Decio di SACE e il numero preciso è questo: gli Stati Uniti hanno implementato dal 2008 fatto a oggi 1084 misure a difesa del loro commercio, per essere chiari. Quindi, come si vede, sì, Trump ne parla esplicitamente, però anche qui c'è una linea di continuità, per così dire, che è cosa diversa, ma qui mi corregga, dalla tesi sostenuta, l'interventismo continuativo americano sul loro mercato e a difesa della loro produzione è cosa diversa poi dal giudizio che ne dà Susanna Mazzucato e che piace molto al dibattito pubblico italiano, cioè che sia anche il cuore dell'innovazione americana. Io ho letto il libro, mi sembra che voi, pur riconoscendo, ma non fate di questo il core della vostra analisi, no? Esatto, c'è sicuramente una forte continuità con i ragionamenti di Mariana, quel libro molto, molto popolare, molto conosciuto. Noi portiamo avanti anche delle altre tesi e in particolare, insomma, ci concentriamo raccogliendo una serie di dettagli proprio sull'industria, sì. Per esempio il rapporto con l'industria dell'auto è sempre stata così, era così ai tempi di Carter e Reagan, dove magari ci si poteva immaginare una discontinuità che non c'è stata. Il salvataggio nasce, esatto. Nasce con Carter e viene immediatamente confermato da Reagan. Stessa cosa direi incredibilmente, forse o più sorprendentemente, tra Bush Junior e Obama. Nel passaggio del 2008, appena Lehman Brothers era caduta, il salvataggio viene di fatto coordinato, pensato insieme in quelle settimane drammatiche e poi viene confermato il salvataggio non solo bancario ma soprattutto anche di pezzi del manifatturiero molto importanti a partire dall'auto. C'è una forte continuità che poi ha permesso in generale la sostenibilità naturalmente industriale, economica e sociale del sistema nel suo complesso, e questa continuità naturalmente dovremo tutti vedere cosa succederà. Io mi aspetto sostanzialmente che sia in gran parte confermata da questi primi avvenimenti, da questa prima, no, perché anche uno degli aspetti su cui l'ipersemplificato schema dei giornali, che ovviamente non ha il tempo, il modo né la conoscenza per seguire tutta l'evoluzione dei storie di mercato che voi documentate, però è quello di dire: Obama multilateralista nel commercio mondiale, con Trump cambio di fase, fine di un'epoca, si va al bilateralismo spinto, quindi rapporti tra le tre grandi potenze, le tre grandi macro aree mondiali, il resto segue. Se andiamo a vedere, in realtà, a fianco dei grandi trattati multilaterali, poi gli Stati Uniti hanno messo sotto ogni presidenza una lista lunga così di accordi bilaterali, o no? Assolutamente sì. Insomma, questo nasce già, diciamo, da Reagan, viene confermato da Clinton, viene poi confermato dai due Bush e viene confermato da Obama. Insomma, quello che si può dire di diverso, no? Non è tanto l'atteggiamento, secondo me, anche in questo passaggio Obama e Trump, ma è l'idea che ovviamente gli Stati Uniti sono adesso inseriti in un contesto internazionale diverso da quello pre-2008, insomma, e questo il rapporto della Cina è evidente, insomma, no? Mentre nel 2008, in particolare nel momento della crisi, poi c'è la questione anche del deficit, eccetera, eccetera, c'era una complementarietà, no? Anche di interessi, la crescita cinese era in qualche maniera complementare a un modello di crescita americano. Beh, insomma, la grande sfida è quella, no? Allora, torniamo tra un minuto con Marco Di Tommaso, coautore di questo libro Industria, Governo, Mercato. Ci stiamo ponendo il problema: ma Trump è più continuità o più rottura vera rispetto a ciò che sappiamo, a ciò che è della politica di mercato e commerciale americana? Della belva. Allora, titolo del libro Industria, Governo, Mercato, Lezioni Americane, autore Marco Di Tommaso e Mattia Tassinari. Marco Di Tommaso insegna economia applicata all'Università di Ferrara, è direttore del Centro Universitario di Economia Applicata, eccetera, eccetera. Insomma, è uno che fa ricerca di politica industriale sul serio e anche per questo le imprese lo apprezzano molto. Ma in questo libro fa un esame insieme al suo coautore molto approfondito di che cosa ha significato nella storia l'intervento concreto nel settore della produzione, nell'organizzazione dei mercati, nell'evoluzione dell'antitrust, nella politica commerciale internazionale del governo americano. E il tratto che si evince, un conto è ciò che si ripete, cioè la teoria di un paese in cui l'interventismo pubblico è solo a fallimento di mercato, altra è la sostanza. La sostanza è una linea di assoluta continuità, di continuo, approfondito, a volte discontinuo negli effetti, cioè in positivo come modello, intervento della mano pubblica in molti settori, non solo quelli strategici per la difesa del mercato, nel commercio mondiale sempre, e con linee di continuità tra colore e colore di amministrazioni diverse insospettabilmente molto più elevate di quanto la semplificazione giornalistica e politica e la recita politica non, certo, imponga di dire. Anche perché l'establishment alla fine ha una continuità molto più elevata di quanto si voglia dire, e Trump in tutta la sua enfasi in realtà piano piano vede. Stai che dicendo che Mr. Exxon a Dipartimento di Stato vuol dire dettaglio, questo? Ma un dettaglio, certo, sì. O Mr. Goldman Sachs al tesoro, che io naturalmente non evoco come il male, però per capirci di che cosa sta dicendo Carlo Alberto, sta dicendo questo, cioè continuità di classe dirigente, al di là di una tendenza un po' diversa a essere espliciti ed estroversi. Però del vedi presidente, che alla fine conta l'apparire anziché l'essere. Allora, vediamo che cosa farà con la riforma fiscale e con misure protezionistiche vere, però se alla fine si bellissimo, riduce... Bellissimo, pezzo di Grossman Noskowitz questa settimana su le 12 promesse di intervento fiscale del Presidente. Vediamo cosa succede, poi alla fine se è semplicemente un entertainer un po', come dire, sopra le righe alla Casa Bianca, forse qualcuno parti nostre avrà un risveglio abbastanza ruvido, no? Non c'è dubbio, però il punto di fondo è, Carlo Alberto, io vorrei capire se questa è l'analisi che ci consegna il libro, noi diciamo leggiamo, a uno dei due coautori, tu che sei un sostenitore del fatto che la globalizzazione in realtà si adatterà come sempre ma non si fermerà, di fronte a quello che leggi sui giornali tutti i giorni, cioè Le Pen questa settimana è stata clamorosa nei suoi annunci, tanto per dirne una, qui se i francesi scelgono lei e non Macron o Fillon, che pare che possa riprendere punti, io poi non so se le danno un governo a giugno, visto che la possibilità che ci sia un governo del fronte anche in caso di sua vittoria è impossibile, però detto questo, noi avremo la Francia con alla testa un presidente che dice via dall'Unione Europea, basta euro, tassa sui lavoratori stranieri, tassa su francesi o stranieri che vogliono operare nel nostro mercato, detengono capitali all'estero, cioè una roba per cui, certo, se vince la Le Pen noi rischiamo in 48 ore una ridislocazione dei capitali in Europa e nel mondo, vedendo. Incredibile. Allora, come possiamo da una parte unire quello che ci dice Marco e Tommaso, ma Trump è più continuità che discontinuità, anche se poi se fa follie vedremo, come dice Mario, rispetto a quello che bolle nella pentola europea? Ma è una buona cosa che gli scandali avvengano, come dice il Vangelo, perché in questo caso qua la Francia, che ha il potere, mica come gli italiani che parlano di sovranismo alla matriciana e francamente non fanno paura a nessuno in realtà, la Francia fa paura e nell'augurarmi che vinca lo spirito repubblicano classico in questi casi si manifesta, ma guarda che l'abbiamo discusso anche 2 anni fa, no? Quando già la Le Pen stava crescendo. La Francia però è una delle nazioni più inserita nei processi di global value chain, sia industriale che bancaria. Tant'è vero che il primo segnale che è arrivato alla Le Pen è: ah, vorresti i soldi delle banche francesi per finanziare la tua campagna elettorale? Sì, te li scordi ovviamente, perché se ci sono proprio banche che sono fortemente internazionalizzate, sono proprio i 3-4 grandi gruppi francesi che hanno fatto un lavoro molto importante di supporto proprio ai processi dell'industria meccanica, dell'industria aeronautica francese. Quindi non lo so, ecco, c'è un pezzo di Francia impaurita, provinciale, che segue la Le Pen, c'è un pezzo di Francia più metropolitana e più diciamo globale che ovviamente sceglierà un'altra strada. Vediamo chi vince. La democrazia ha la sua, giustamente la sua strada, ma secondo me è un bel segnale invece, è quello che stavamo dicendo prima di Scholz, è un bel segnale invece per tutto il resto d'Europa. L'industria mondiale non si ferma per qualche scalmanato politico europeo, questo ve lo posso dire con tutta franchezza, anche perché conviene ai cinesi, conviene ai giapponesi, alla fine vedete i segnali che stanno dando, per esempio nel caso di Brexit, no? Dicendo noi abbiamo disperatamente bisogno di avere le regole chiare su come l'industria automobilistica si deve muovere nel contesto dei modelli, diciamo, tariffari di mercato. Quindi ti dirò che ho anche apprezzato il tono che Gentiloni ha portato nel suo incontro con Theresa May, che è un tono favorevole a un negoziato soft e non muscolare, a differenza di molti, i giornali italiani chiedono come al solito, credendo di far copie con gli urli muscolari, vorrebbero subito che noi dicessimo alla May hai rotto cazzo, eccetera eccetera, queste cose io le leggo sui giornali aziendale, mi chiedo come dei direttori che conosco personalmente del tutto lì da questi toni, poi sono tutti diventati, non so, come quelli poi vince dopati, la realtà, no? Ecco, però Gentiloni secondo me ha avuto l'approccio giusto, no? Rispetto all'interesse italiano che abbiamo lì, rispetto alle centinaia di migliaia di italiani che sono radicati in quel paese e che cosa fanno. Però torno al nostro ospite. Nel capitolo finale del libro, dopo aver parlato della continuità e dopo aver anche non eluso la questione fondamentale, cioè, ma per l'America è stato il grande successo mondiale nell'economia americana, è avvenuto grazie all'intervento pubblico o nonostante, e loro correttamente dicono questo, ci vorrebbero ipotesi controfattuali tali che insomma non ci interessa poco. Diciamo che è avvenuto anche in presenza di questo, a volte in maniera decisiva, a volte no, ma non ne facciamo una questione ideologica. Però c'è una questione di fondo, perché di Tommaso, voi riconoscete che l'intervento pubblico americano si è sempre posto un problema non solo di innovazione delle tecnologie, non solo di effetti economici coerenti con la politica mondiale di proiezione di forza degli Stati Uniti nell'evoluzione della storia, ma anche avendo un'idea di innovazione sociale, cosa che nel nostro paese, se uno pensa che interventi politici davvero riescano a garantire queste robe, al di là di ciò che dichiarano, ti vengono i brividi perché dici non è vero, però effettivamente in America è stato così. Allora, non c'è una grande discrasia di fondo tra quello che Trump dice rispetto alla sua base elettorale, che è la base elettorale che non si è riconosciuta in alcuni interventi economici che dovevano rafforzare la Middle America, e ha finito di votare Trump per questo, e ciò che invece dice il protezionismo finto trumpiano in Europa quando parla di politica economica, parlando di rottura dell'Unione Europea, rottura dell'euro, eccetera, eccetera. Cioè tutte cose che avrebbero delle ripercussioni terrificanti su chi ha reddito, ha meno reddito e reddito basso. Lei unisce queste due espressioni o ce la vede questa contraddizione della mia troppo lunga domanda? Domanda da 10 milioni di dollari, ma diciamo, per cercare di andare nella direzione, insomma, del ragionamento di queste questioni, insomma, la continuità è stata possibile negli ultimi 250 anni, secondo noi, perché sostanzialmente la crescita permanente, no? È stato il grande collante che poi, per esempio, negli anni 60 ha messo insieme i sindacati con i governi, eccetera, eccetera. Ed è quella crescita permanente, la forza, la benzina su cui comunque bisogna continuare ad investire. Quello che è sicuro è che il resto del mondo è completamente diverso, ecco. No? Per esempio, noi parliamo molto di industria dell'auto, che chiaramente è diciamo, uno dei pezzi centrali dell'industria, dell'economia, della società americana. Beh, insomma, noi stiamo aspettando che la Cina entri e ritorno sulla Cina, perché quella è la grande sfida che fa la differenza. Che la Cina deve entrare, sta per entrare anche nell'auto, nel mercato globale, e questo cambierà radicalmente tutti gli equilibri. Quello che diciamo di estremamente interessante noi rileviamo nel lungo periodo è questa capacità comunque nella continuità di lungo periodo di comunque favorire il cambiamento, no? Non è una società statica, no, si può entrare, la mobilità sociale. Esatto, non predica, diciamo, al di là delle cose di Trump, però il modello è realizzato sul punto di forza opposta, sulla porosità e sull'ingresso, mentre l'Europa piccola tende a voler proporre leader che dicono rendiamoli ancora più leader nazionali nani. Questo è quello che vedo io come differenza di fondo. Intanto grazie al libro che avete scritto e grazie a essersi reso disponibile il sabato mattina, Marco e Tommaso, noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. È la musichetta felliniana, questa volta una sottile nota di brivido, perché nel frattempo io vedo che telefonano oltre, io poi sono mio per astigmatico, quindi deve sapere che è pure sporco il vetro della regia, non vedo nulla di quello che c'è di là, ma sorridono? Non sorridono, ragazzi, allora chiamate Renato, fate qualcosa. No, perché vi spiego, chiusura della musichetta feliniana. Sapete che questa musica è diventata nelle nostre settimane la sintesi con cui lanciamo l'intervento settimanale del nostro amico Udo Gumpel, della nostra coscienza pulita tedesca. Io la dichiaro così apposta, sapendo che vi faccio incazzare, di cui non sappiamo fare a meno. E con loro, con lui, questa settimana volevamo porci il problema. L'incontro tra Scholz e Draghi, tra Draghi e la Merkel, e l'ascesa di Scholz, no? Perché questa settimana ci sono stati questi due. Scholz oramai ha preso 11 punti in una settimana, da che ne abbiamo parlato noi, e in vantaggio, in testa, dovunque attira elettori della CDU e della SU nei teatri, che dicono: io sono molto interessato al fatto che ci sia un'alternativa, che mi sembra anche ragionevole. Uno, due, Scholz decide sull'Europa di avere un tono molto diverso da quello della Merkel, che parla di Europa a doppia velocità. Lui dice tutti i giorni: no, bisogna tutelare anche, dare una mano all'Italia. E secondo, terzo, risponde durissimamente a Trump tutti i giorni Scholz, dicendo: noi siamo la cosa opposta, tanto che Schäuble gli ha detto: beh, rischi però di diventare tu il Trump tedesco, perché dici tutti i giorni Europa first, mentre invece Schäuble dice: no, l'Europa non funziona. Quindi questa è la novità. Dall'altra novità c'è Draghi, questa settimana alla testa del Partito della Difesa dell'Europa, sempre più mesto nel capire che i leader europei vanno per i cavoli loro oramai, e gli elettorati in Olanda, in Francia, in Italia sembrano imbesuiti dalla gara in atto tra giornali e politica a dire: no, torniamo agli stati nazionali, torniamo all'Iretta, ai franchini, non avverrà nulla al risparmio del debito pubblico, saremo più forti che mai. E poi il debito pubblico, ma che vuol dire? Noi obbligheremo di nuovo la nostra banca centrale a stampare per monetizzarlo il debito pubblico, l'ha detto la Le Pen, lo dicono in Italia. Ecco, Udo Gumpel non c'è, quindi adesso tocca a voi, caro Carlo Alberto, trarre le file, Mario Seminero, di questa settimana da questo punto di vista. Vi piace? Dobbiamo usare anche l'accento tedesco? ma no, Mario, tanto lo sapete bene, che ci attribuiscono la posizione filo tedesca, ed è vero, poi, cioè, per certi versi, no, se è rigorosa, no, e seria. Io sono la posizione vero. Filo realtà, non filo tedesca, perché io ho criticato duramente la Germania quando la Germania non capiva un accidente e faceva disastri come quello del vertice di De Ville, portandosi dietro l'altro piccolo clown di Sarkozy. Per cui io non sono filo tedesco, sono filo realtà. Oh, l'ha detto con un tono da killer, definitivo, però, definitivo, sì, definitivo. No, però proviamo a commentare questa ascesa di Scholz e questa Merkel che cerca di riposizionarsi in bilico per la prima volta, vede, non dico minacciata, ma insomma almeno messa in discussione una leadership. E io trovo che in questo senso, scusate, la Germania sia importante non soltanto per la sua centralità, ma perché finalmente ripropone un confronto su diverse idee d'Europa, e due diverse idee legittime d'Europa: quella, diciamo, della cristiano democratici, un'Europa delle regole rigorosa basata sulle logiche di bilancio, e quella politica, fortemente politica secondo me, di Scholz, che ha ovviamente tante contraddizioni, fatemelo dire, tante, ma è tutta da costruire. Lo so, a me sembra enormemente tardi. Senti, la proposta Schäuble era del 96, sì, vero. E dice: prima di fare un euro senza unificare i mercati, che non funzionerà, lo dicevo anch'io all'epoca, infatti. Ma dai, lo dicevamo tutti al 94, no, non lo dicevamo, cioè, tutti per niente, io lo dicevo, cioè. Ah, ho capito, perché a dire eravamo in quattro gatti e veniamo trattati come appestati. Ma lo dicevo Friedman, dai, su. E i guru di oggi col cazzo che lo dicevano, perché stavano lì a scrivere altri libri e a dire tutt'altro, per essere chiari. Pare proprio di sì. Detto tutto questo, oggi che si faccia davvero, ma chi sono i leader europei che si mettono al tavolo a dire: no, andiamo? Io sono molto scettico, devo dire la verità. Infatti io apprezzo la quella di Scholz semplicemente perché dà una freschezza nuova a una politica non radicale tedesca, ma che abbia un po' la freschezza, perché non funziona più neanche da loro. Io penso, spero che funzioni di più anche per dare meno voti a Alternative für Deutschland, per essere chiari, che altrimenti dalla riproposizione solo della Merkel, che resta l'unica grande statista europea che abbiamo oggi in questi anni, secondo me molti dicono: vabbè, ma senza alternativa allora esamino gli altri. Vedremo, a dire la verità, ma Draghi è solo come un cane, ve ne siete resi conto? Certo. Cioè, Draghi è completamente da solo. Draghi parla una lingua che nessuno più declina in Europa, ha regalato un tempo di cui la politica non è neanche né consapevole, vero, né grata. Vero. Anzi, in Italia fioriscono fior di economisti, ex consob, ex assessori, che dicono: ma qui vuole farla finire. Noi invece dobbiamo assolutamente impedire che finisca il QE, deve diventare l'autostrada, devono tenersi tutto dentro nei bilanci e sterilizzarlo per sempre, e così via. Che non è molto diverso dire che si fa click, si trasforma tutto in un perpetual, eccetera eccetera. Questa è l'unica cosa che io leggo sui giornali italiani. Però, o no? Però guarda, allora io non so come finirà, sarà sicuramente un governo di grande coalizione in Germania. Schulz è un personaggio che conosciamo per la sua presenza, diciamo, alla guida del Parlamento europeo, oltre che per essere stato, come dire, nobilitato 15 anni fa da Berlusconi, che è un noto talent scout, quando lo definì capo. Quindi... e poi soprattutto Schulz è una persona che parla italiano, eh? Cioè, questa cosa è un poliglotta che tra le altre lingue parla italiano. Nessuno è perfetto. No, vabbè, però sai com'è? Un tedesco che parla italiano, diciamo, magari non troppo da tedesco, può sempre stare bene. Io credo che la Merkel sia logora. Appunto, ci sarà una grande coalizione, ma la Merkel comunque è logora. E Schulz è stato uno degli autori di quel documento dei cinque presidenti socialisti. No, figurati. No, però non ha avuto successo. Che fine, dobbiamo chiudere. Bene, comunque io dico più rigore tedesco. Mi dispiace, pensate che io sia servo dei tedeschi, non è vero, ma diffidate di chi vi vende palle, perché vi vuole mandare in miseria e vuole fare il super ministro dell'economia. Diffidate di loro, per favore. L'Italia, l'Italia, le mezze.